Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è la seconda settimana di Eclettica, questa nuova stagione in compagnia di Giulio Caperdoni, in compagnia del podcasting, in compagnia di MySpace, dedicato ad Eclettica, www.myspace.com/eclettica, in compagnia del segnale via satellite. Ottima, un'ottima esperienza anche dal punto di vista personale, visto che abito in zona non coperta dalle frequenze terrestri. D'altronde dichiaro dove abito su MySpace, motivo in più per andarci, farci un giro e soprattutto lasciare una traccia. E per quanto riguarda le tracce da lasciare, ho visto che stanno cominciando ad arrivare i primi contributi spontanei e vanno proprio nella direzione che io volevo indicare. Ho aspettato qualche giorno per vedere se c'era qualcuno che appunto iniziava per conto suo, e sono ben contento che questo sia successo. Vedrò adesso io magari di dare qualche linea guida, sperando che questa possa stimolare anche altri. Vediamo se lo spazio di MySpace assume quella forma che è nei miei sogni. Ve li racconterò per scritto, dove si può parlare senza rubare tempo alla musica e senza rubare tempo ai libri. Era una gioia appiccare il fuoco. Era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. Con la punta di rame del tubo fra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo cherosene benefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie e le sue mani diventavano di non si sa quale direttore d'orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della storia. Col suo elmetto simbolicamente numerato 451 sulla stolida testa, con gli occhi tutta una fiamma arancione al pensiero di quanto sarebbe accaduto la prossima volta, l'uomo premette il bottone dell'accensione e la casa sussultò in una fiammata divorante che prese ad arroventare il cielo vespertino, poi a ingiallirlo ed infine ad annerirlo. Questo era l'incipit di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. me, it's driving me crazy. And I think I'm getting lonely. What I see you in my bed is my stupid in my head. Thank you. provengono da Lincoln, che si trova nel Nebraska. Proprio a Lincoln e anche a Omaha hanno fatto i loro primi concerti, precisamente nell'anno 2004. Sto parlando degli Eagle Seagull, un asterisco nel mezzo come vezzo, un quintetto tutto maschile con un saltuario aiuto femminile. Questo è il loro disco d'esordio, quindi è un disco omonimo nei negozi di dischi da pochissimi giorni, dal 15 di settembre. Esce per l'Alado e il brano che noi ci siamo ascoltati ha il titolo abbastanza lungo, Your Beauty is a Knife I Turn on My Throat. Questo è il titolo del brano degli Eagle Seagull che ci siamo appena ascoltati all'interno di Ecletica, un brano con un pianoforte quasi da music hall. Giulio è radiorockfm.com, il mio indirizzo di mail, fra le tante cose, oltre ovviamente a risottolinearlo ancora una volta, iscrivervi alla lista nera di Ecletica, indirizzo che vi permette anche, se scrivete, di vincere i biglietti per quanto riguarda i concerti dei prossimi giorni. Per la precisione, OK Go il 3 di ottobre a Rainbow, Final Fantasy il 4 di ottobre allo Spazio 211 di Torino e il 6 al J di Legnano. Forward Russia il 4 al Rainbow, ovviamente di Milano, come anche lo stesso Rainbow di Milano per gli OK Go, non avevo citato la città ma penso che sia ovvio. Il 6 al Covo di Bologna, sempre Forward Russia, e il 7 allo Spazio 211 di Pavia. Ora un brano che, trasmesso per la prima volta in Ecletica settimana scorsa, ha ricevuto più di una menzione da parte di chi mi scrive. Sono gli Newt con Esistere. Thank you. siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, il mio e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. No, fermi. Oh, scusi, stacco, doganiere. Vabbè, posso andare allora. Scusi. Ehi! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è caduto il sacco, allora l'ha attraversato. Un fiorino. Ma siamo quelli... Grazie. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. C'è uno entra e esce, sbarca sempre un fiorino. Siamo due o tre, sempre. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi! Chi siete? Ma dappa! Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. That's true. Ramona Cordova, questa settimana, dopo avervelo fatto ascoltare la scorsa per la prima volta, lo troverete anche come pillola, quindi non solo alla sera ma anche durante il giorno. Le pillole, vi ricordo, vanno in onda alle 10.55 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E forse, la stagione è appena iniziata, potrebbe anche darsi che le trovate durante il weekend in replica. Comunque nei prossimi giorni dovrebbe essere presa questa decisione, che io ovviamente dal punto di vista assolutamente personale sto cercando di spingere. Mi scuso invece per quanto riguarda la qualità sonora dello spezzone del film che ha caratterizzato sia la scorsa che questa settimana. In preascolto prima e poi ricontrollato dopo si sentiva benissimo, per qualche strano motivo del destino ha deciso di andare solo su un canale, sull'altro parzialmente, durante proprio la messa in onda. Scusatemi, spero che comunque il senso e lo spirito con cui è stato mandato non si sia perso. Ora ci ascoltiamo uno degli artisti citati precedentemente nella lista dei concerti che avrete la possibilità di andare a vedere gratuitamente nei prossimi giorni grazie ad Eclettica, un artista che tanto con Many Lies 49 MP ha caratterizzato la scorsa stagione di Eclettica, ovvero sia Final Fantasy, che ci ascoltiamo quest'oggi da He Pulls Clouds, invece con un brano completamente diverso. È la traccia numero 3, This Lamb Sells Condos. Genitals refuse to cooperate. No amount of therapy can hope to save his marriage. But the prisoners be silent. But be silent and be sharp. Thank you. saying this 'cause I love you. You know I hate it when your friends are in the pool. Oh, money sticks, send those faggots back to Boris Jill. Contentment, what's contentment? I am more than impotent. Is that what it's about? Oh, honey, honey, shut your mouth. E siamo quasi arrivati alla chiusura anche della prima parte di Eclettica di questa settimana, dopo Final Fantasy, album per così dire dell'anno scorso, della stagione scorsa, anche se uscì solo nel mese di giugno. Invece un disco uscito proprio ieri, un disco che trasmetto non per le sue qualità intrinseche, ma più per rendere omaggio a quello che è stato il produttore, la mente sonica dietro Yankee Hotel Foxtrot, il capolavoro dei Wilco. Infatti stiamo parlando del Transfuga dei Wilco, è uno dei nomi più importanti della scena indie roots statunitense, Jay Bennett, che ha deciso di fare da solo, e lo fa perlomeno per il momento con un disco molto discontinuo nella produzione. Sembra quasi proprio così un mandiamo in stampa quello che abbiamo pronto qua sul disco del computer, senza domandarsi troppo il nesso fra i vari brani, anche diversi livelli proprio di produzione. Slow Beautiful is Second Faster, questo è il titolo del brano da The Magnificent Defeat di Jay Bennett, che chiude la prima parte di Eclettica di questa settimana. Yeah. Eclettica. Fine della prima parte.